50 domande su Gesù. Che cosa dicono i Vangeli apocrifi? Gli scritti apocrifi che proliferarono nella Chiesa a partire dal secondo secolo possono dividersi in tre categorie. 1. Quelli che ci sono pervenuti su frammenti di papiro e hanno una certa somiglianza con gli scritti canonici. 2. Quelli che si sono conservati integri, che hanno un carattere agiografico e tramandano racconti sulla vita di Gesù e della Santissima Vergine. 3. Altri che sotto il nome di un apostolo si proponevano di diffondere dottrine che mescolavano la rivelazione cristiana con le dottrine gnostiche. Tra i primi, che sono pochi e aggiungono poco a ciò che già si sapeva, forse anche perché non conosciamo tutto il loro contenuto, vanno inclusi i frammenti del cosiddetto Vangelo di Pietro che racconta la passione. Fra i secondi, il più antico è chiamato Protovangelo di Giacomo, che parla della vita della Santissima Vergine, della sua permanenza nel Tempio dall'età di 3 anni e del suo affidamento a San Giuseppe, che viene presentato come vedovo perché avesse cura di lei. Quando Maria compì 12 anni, i sacerdoti del Tempio riunirono tutti i vedovi per sceglierne uno per affidargli la protezione di Maria. La scelta cadde su Giuseppe, perché per un prodigio dal suo bastone spuntò una colomba. Altri apocrifi successivi, come lo Pseudo Matteo, riportano lo stesso episodio con la variante che il bastone fiorì miracolosamente. Il Protovangelo si sofferma poi a raccontare la nascita di Gesù e che il Santo Patriarca cercò una levatrice per verificare la verginità di Maria nel parto. Con uno stile simile, altri apocrifi, come la Natività di Maria, si soffermano a raccontare la nascita della Vergine da Gioacchino e Anna, che erano già anziani. Lo Pseudo Tommaso narra l'infanzia di Gesù e i miracoli che faceva da bambino. La morte di San Giuseppe è il tema principale della storia di Giuseppe il Falegname. Negli apocrifi arabi dell'infanzia, molto posteriori, si fissa l'attenzione sui re magi, dei quali un testo etiope ci dà anche i nomi, che sono poi divenuti popolari. Nel Libro del Riposo, o lo Pseudo Melitone, il tema principale è la morte e l'assunzione della Santissima Vergine, che secondo questa pia tradizione morì circondata dagli apostoli e che il Signore trasportò col suo corpo su un carro celeste. Tutte queste leggende devote circolarono con profusione nel Medioevo e ispirarono molti artisti. L'ultimo tipo di scritti, che più propriamente si possono chiamare apocrifi, cioè nascosti, sono quelli che trasmettevano, all'interno di alcune sette, dottrine eretiche. Sono quelli più citati dai santi padri che li studiarono per confutarli e spesso li designarono con il nome dei loro autori, che in genere erano i capi di queste sette, come per esempio Marcione o Basilide. Altre volte invece prendono il nome dei popoli cui erano destinati, come per esempio il Vangelo degli Ebrei o degli Egizi. Gli scrittori ecclesiastici accusano questi eretici anche di intitolare a volte i loro scritti col nome di qualche apostolo, preferibilmente Giacomo o Tommaso. Le informazioni che già avevamo dagli antichi scrittori cristiani, Sant'Ireneo, Sant'Epifanio, eccetera, sono state confermate dal ritrovamento di circa 40 opere gnostiche scritte su papiri, ritrovati a Nag Hammadi in Egitto nel 1945. In queste opere in genere sono presentate rivelazioni segrete di Gesù, di cui però non c'è nessuna certezza. La base dottrinale è comunque quella di tutte le sette gnostiche conosciute. Il Dio creatore è un Dio inferiore e perverso, il demiurgo. Alla salvezza individuale si arriva mediante la consapevolezza della nostra natura divina.